Oh, a proposito di erezioni, suppongo converrete anche voi con l'opinione diffusa che una delle condizioni necessarie da instaurare per andare a votare con un minimo di fiducia nello svolgimento democratico della consultazione sia la previa instaurazione di un regime di non eccessiva disparità di condizioni in tema di propaganda e informazione televisiva, no? Lo si dice da un po'. E suppongo che anche a voi, come a me, sia capitato di chiedervi ogni tanto come mai questo auspicato e difficilissimo obiettivo politico, difficilissimo perché è sempre difficile imporre una norma, sia pure la più sensata del mondo, che detti qualche freno all'incoercibile potenza del quattrino, come mai questo obiettivo politico sia costantemente definito nella nostra pubblicistica con l'aulica espressione latina par condicio, quando nulla impedirebbe di attenersi al nostro nativo italiano, parlando di pari condizioni, o se proprio si vuole rispettare la preferenza per le espressioni astratte tipica delle lingue moderne in casi del genere, di parità di condizioni. Oltretutto, ricorrendo all'italiano si avrebbe il vantaggio di impedire a molti parlanti di dar prova in pubblico e in privato di una fantasia fonetica perlomeno discutibile, parlando, come ho sentito fare a taluni giovanotti, di belle speranze anche qui a Radio Popolare di par condition, come se di inglese si trattasse, o invece come fa normalmente il povero Bossi di par condizio o qualcosa di simile. Condicio, secondo la pronuncia umanistica normalmente accettata nelle nostre scuole, si dice condicio, con la seconda C palatale, e sentire certe deformazioni per un vecchio cultore degli studi latini come me è un vero tormento, ma naturalmente non è di questo che voglio parlarvi. Quello di cui voglio parlarvi è quello di cui voglio chiedermi è perché si continua a dirlo in latino, e non venitemi a dire che è la stessa cosa. Par condicio vorrebbe dire parità di condizioni se parlassimo in latino. Quando, parlando una lingua, nel caso l'italiano, usiamo delle locuzioni che appartengono a un'altra lingua, antica o moderna che sia, non lo facciamo mai a caso. O è un'implicita citazione di un'espressione famosa, alla cui autorevolezza intendiamo rendere omaggio nella speranza che si riverberi sulla nostra argomentazione, è una cosa che, non so se l'avete notato, io faccio spesso, e magari me ne scuso adesso, o è un termine di cui ci appropriamo nel presupposto che nella nostra lingua un suo equivalente perfetto non ci sia. Il che di solito si spiega col fatto che il fenomeno, o l'insieme di fenomeni cui si riferisce, si è sviluppato in un'altra area linguistica. Mi spiego, se tutti alla faccia dei puristi diciamo leader, bar e sport, lo facciamo perché siamo convinti che tutti i possibili equivalenti italiani, capopopolo, pubblica mescita, giochi collettivi, non corrispondano affatto a quanto quei tre termini inglesi normalmente indicano. E questo perché di leader, di bar e di sport in senso moderno in Inghilterra si è cominciato a parlare prima che da noi, quando da noi non esisteva nulla di simile. Ci sono degli altri motivi possibili, per ricorrere al barbarismo o al pedantismo. Per esempio, una volta nelle traduzioni era uso volgere o lasciare in latino quei termini, che di solito riferiti a organi o funzioni sessuali, che si pensava per una certa loro crudezza potessero provocare turbamento nei lettori meno preparati. Ma non crediamo che questo sia il nostro caso. Però, se la situazione è questa, non c'è santi, la par condicio di qualsiasi cosa si tratti non è la parità di condizioni. Non è una citazione, almeno quanto mi risulti, e non si riferisce a qualcosa che nel mondo classico c'era e nel nostro no. Nel mondo classico, come tutti sappiamo, non solo non c'era la televisione e neanche gli strumenti di comunicazione di massa, ma non c'era neanche la parità di condizioni per nessuno, perché l'uguaglianza come valore politico era ancora tutta da inventare. Par condicio è un'espressione che dalla sua forma latina si limita a ricavare una vaga autorevolezza e al senso stesso un'autorevole vaghezza di contenuto. Quando finalmente ce la daranno, se ce la daranno, vedrete che di parità di condizioni non ne avremo neanche l'ombra, saremo sempre irrimediabilmente impari e non potremo neanche protestare, perché non la parità di condizioni infatti ci hanno promesso a tutt'oggi, ma la par condicio, che a differenza di quello è un concetto ancora da definire. Il latino, nella tradizione della nostra cultura, ha un'altra funzione fondamentale, quella di aumentare il potere di chi lo usa.